Ok, è notizia di oggi che il sindaco di Terzigno, Domenico Auricchio, ha revocato l'ordinanza con cui appunto lo scorso 14 novembre aveva vietato agli autocompatti di raggiungere la discarica di Cavasari. Vabbè, è una notizia che è coerente chiaramente con il personaggio, un personaggio sempre molto pavido e ossequioso del potere, ma in difesa dei propri cittadini e degli interessi dei propri cittadini. Il problema là non è il fatto di andare a dimostrare un diretto rapporto con l'attuale inquinamento delle falde idriche, ma il problema è di avere uno sguardo ai fortissimi disagi che si hanno con i miasmi gasosi per i quali i cittadini non riescono a dormire oramai da un anno e mezzo, due anni, e il problema è anche comunque una cava del genere in cui non c'è una depurazione, non ci sono una cava a fosse nel quale vengono a finire i rifiuti, e comunque prima o poi l'impatto con la falda freatica sarà inevitabile, perché l'impermeabilizzazione, messo che sia buona, perché non è buona per detto stesso dell'ARPAC, comunque prima o poi dovrà cedere e quindi andrà a finire tutto nelle falde. Non è che una discarica io metto in un buco dei veleni impermeabilizzati e posso pretendere che ab eternum ci sia questa impermeabilizzazione che continua, anzi questi veleni diventano ancora peggiori perché vengono organicati, complessati con acidi umici, acidi fulvici, e quindi metalli pesanti poi dopo diventano eluibili e anche assorbibili, diciamo, da parte degli organismi viventi. Chiaramente loro la crisi non la vogliono, devono fare le elezioni amministrative, certo. E chiaramente non è una cosa che faccia piacere nel centro-sinistra e nel centro-destra. Loro il problema lo risolvono solamente con le buche e con gli inceneritori, non hanno mai fatto una politica virtuosa, hanno rubato a man bassa migliaia di milioni, cioè centinaia di milioni di euro e miliardi di euro, e quindi migliaia di milioni, che non hanno realizzato neanche un sito di compostaggio o un impianto serio per il trattamento meccanico di rifiuti, solo discariche e solo inceneritori. Il questore che fa politica invece di fare il suo mestiere, perché se dice che ci sono camorristi deve arrestare i camorristi, non dirlo, ma è soprattutto questo fatto strano che questa gente che è così abile nel confezionare, dici, molotov e poi le porta di mezzo alla polizia e le lascia in bella vista, poi addirittura sono abili a procurarsi armi jugoslave, che erano le stesse armi che poi furono sequestrate dalla polizia negli anni '80 con l'inchiesta Check to Check, l'operazione Check to Check con la mafia e con la camorra, e quindi queste bombe a mano poi le riportano in mezzo a dove stanno i poliziotti e le lasciano a terra, ma non so con quale logica neanche, quindi sono cose un poco strane, io non posso fare certamente nessun tipo di illazione, però sono cose che lascio al buon senso e alla riflessione di tutti.